Radio 24 Reportage. Green Economy ed economia circolare. Nuovi tipi di business che fanno bene alle imprese, alla crescita e alla vita dei cittadini. Di Adriano Palazzolo. Un giro d'affari che in Italia si avvicina ai 200 miliardi di euro e che coinvolge quasi 400.000 imprese. Sono questi i numeri principali della green economy e dell'economia circolare che, nonostante la crisi mondiale, negli anni ha continuato a crescere. Nel 2005, secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, il fatturato dell'industria verde era di 990 miliardi di euro ed è stato stimato che nel 2020 sarà più che raddoppiato, arrivando a circa 2.200 miliardi. Ma qual è la differenza tra l'economia lineare e quella circolare? Lo spiega il professor Fabio Fava, docente di biotecnologie industriali ed ambientali all'Università di Bologna. L'attuale economia è per il 90%, 85% un'economia lineare. Si prende le materie prime da una parte, la si trasformano, si fanno i prodotti, li si utilizzano e si generano dei rifiuti. E da una parte quindi stiamo depauperando le materie prime, dall'altra stiamo accumulando dei rifiuti. Il sistema ovviamente ha bisogno di essere rivisto, una parte dei rifiuti che produciamo può essere riutilizzata, sia che siano i rifiuti cosiddetti tecnici, quindi plastiche, legno, carta, imballaggi, ma anche ferrosi, elettronici, elettrici, di costruzione, eccetera, sia quelli biologici, ma anche i residui dell'agroforestale, l'industria alimentare che produce tanti rifiuti sottoprodotti. Tutto questo può essere in grossa parte riutilizzato. Questo è l'economia circolare, significa ridurre i rifiuti che stiamo accumulando e riducendo nel contempo la quantità di materia prima che andiamo ad attingere per far girare la produzione. Non è solo il riutilizzo dei rifiuti, è anche soprattutto aumento di efficienza nella trasformazione delle materie prime nei prodotti, perché si abbia più prodotto e meno rifiuto. E poi è importante anche pensare a nuovi prodotti, a progettare nuovi prodotti, perché questi possano essere più durevoli, possono essere meglio riparabili e una volta a fine vita meglio riciclabili o valorizzabili all'interno delle filiere di cui parlavamo prima, di riutilizzo e valorizzazione dei rifiuti. Rifiuti e sprechi oggi sono diventati un business per le imprese e un settore importante per la crescita dei paesi. Per questo motivo le amministrazioni locali e le istituzioni si stanno muovendo in misura sempre maggiore per incentivare economia green e circolare. Il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, intervenuto all'inaugurazione dell'ultima edizione di Ecomondo, la fiera del settore. Abbiamo capito che è un business l'energia rinnovabile, abbiamo capito che è un business l'economia circolare, abbiamo capito insomma che il futuro economico è un futuro che si poggia sulle buone pratiche ambientali, sulle produzioni ambientali. Questa non è più la fiera della green economy, è una vera fiera dell'economia italiana e dell'economia globale. Abbiamo un mercato potenziale fortissimo fuori dall'Italia perché noi in questi anni abbiamo sviluppato tecnologia e buone pratiche che oggi possiamo esportare e credo che questo sia il luogo giusto per metterle in mostra e anche per poterle vendere. Un'occasione che anche l'Europa non vuole perdere. Il Parlamento europeo e la Commissione europea considerano l'economia circolare un pilastro strategico per la competitività e con l'adozione del Circular Economy Package a fine 2015 la Commissione ha identificato obiettivi restrittivi sul fronte della riduzione della produzione dei rifiuti e sul loro riciclo e ha avviato nel contempo finanziamenti importanti a sostegno della ricerca e dell'innovazione nel settore. Ancora il professor Fabio Fava. Ogni paese sta facendo il meglio, la Commissione europea sta spingendo molto su questo, il Parlamento è molto attento, mettendo investimenti importanti in ricerca e innovazione. Tenga conto che la Commissione europea, nell'ambito dell'Horizon 2020, che è il più grosso piano di sostegno a ricerca e innovazione che ha messo in campo l'Europa, ha indirizzato quasi 1 miliardo di euro dal 2015 fino al 2020 per i 5 anni, oltre 1 miliardo di euro di ricerca e innovazione. In più ha indirizzato i finanziamenti cosiddetti strutturali in maniera importante, 5 miliardi di euro andranno a sostegno dell'economia circolare. Quindi ha fatto molto perché potesse partire, sta partendo, sta producendo anche in Italia risultati molto interessanti, però siamo all'inizio e c'è molto dinamismo interessante e promettente. Serve anche una legislatura, normative che affiancano e che possano facilitare questo percorso. Più prodotto e meno rifiuto è il concetto cardine dell'economia circolare ed è qui che entra in gioco la raccolta differenziata. Dal 2006 al 2016 la raccolta differenziata in Italia è raddoppiata, passando dal 25 al 52%. Tuttavia si è ancora lontani dall'obiettivo del 65% fissato dalla normativa per il 2012, raggiunto l'anno scorso solo da 4 regioni del nord. Uno dei segmenti della raccolta differenziata è quello degli imballaggi, di cui nel 2016 sono stati complessivamente immessi al consumo 12,6 milioni di tonnellate. Il CONAI è un sistema di 6 consorzi che garantiscono a imprese, comuni e dunque ai cittadini che gli imballaggi di acciaio, alluminio, carta e cartone, legno, plastica e vetro vengano raccolti e avviati al riciclo. Tutto però parte dall'operato del singolo individuo e dunque è bene avere in mente alcune raccomandazioni generali su come fare una raccolta differenziata di qualità. Il presidente del CONAI, Giorgio Quagliuolo. La prima è di separare correttamente gli imballaggi in base al materiale, per cui laddove si prevede la raccolta monomateriale, ogni singolo materiale conferirlo nel suo specifico contenitore. Secondo, cercare di ridurre il volume degli imballaggi, però anche qui bisogna farlo con attenzione, perché ad esempio le bottiglie non vanno schiacciate in senso verticale ma in senso orizzontale, perché sennò poi si crea dei problemi negli impianti di selezione. E ad esempio, sempre riguardo alle bottiglie, bisogna lasciare il tappo, perché il tappo è piccolo, se non è attaccato alla bottiglia non viene recuperato perché cade nel sottovaglio e viene perduto. E tra l'altro è fatto con un materiale di grandissimo pregio, il tappo delle bottiglie che contengono liquidi alimentari. La terza è quando gli imballaggi sono composti da più materiali, per cui sono fatti di un accoppiamento di più materiali, cercare di dividerli. Ad esempio io sono, siccome purtroppo per deformazione professionale mi è venuta questa malattia, ci sono dei formaggi che sono avvolti in un foglio che per metà è plastica e metà è carta, che tra l'altro si separa molto facilmente, io personalmente lo faccio sempre. Ultimo, cercare di appunto conferire materiali puliti, per cui togliere gli scarti di cibo, i residui alimentari, perché questi residui, soprattutto nella stagione calda, fermentano e, oltre a creare un'aria veramente irrespirabile, compromettono anche poi la qualità delle materie prime e seconde che si ottengono dal riciclo. Fare raccolta differenziata di qualità non è facile e oltre alle raccomandazioni generali che valgono per ogni tipo di materiale, ci sono regole diverse per ogni tipo di imballaggio. E anche in questo caso ci sono delle convinzioni che possono trarci in inganno, compromettendo il risultato finale dei nostri sforzi, ma anche di chi si occupa poi di lavorare e trasformare quello che noi differenziamo. Ecco allora alcune indicazioni specifiche per non sbagliare. Ancora Giorgio Quagliuolo. Bisogna sapere appunto che la carta sporca non si può riciclare, per cui non dovrebbe essere conferita nei contenitori per la raccolta della carta, perché ovviamente, e gli scontrini soprattutto, sono fatti di carta termica che ha nulla a che vedere con la carta cellulosica. Per quello che riguarda il vetro, guai mettere bicchieri, perché sono cristalli, contengono piombo e per cui sono, diciamo, non sono compatibili col vetro dei contenitori per liquidi, e men che meno ovviamente porcellane o materiali similari. Pyrex, lampadine, cioè non hanno nulla a che vedere col vetro. Sull'alluminio bisogna anche qui riconoscere gli imballaggi di alluminio da quelli di acciaio, ma è abbastanza semplice e non è che c'è solo la lattina classica, ma abbiamo anche le vaschette, ci sono le bombolette spray, tutto questo film sottile, tipo il Domopack, questo è tutto alluminio che dovrebbe essere conferito nell'alluminio. Lo stesso discorso più o meno vale per l'acciaio, dove si tratta di cercare di capire che non è alluminio, per cui va conferito per quanto riguarda l'acciaio. Nella plastica si possono conferire tutte le frazioni plastiche, però devono essere imballaggi, per cui si fa spesso molta confusione in questo campo. Cioè un giocattolo non è un imballaggio, per cui benché sia di plastica, il giocattolo va messo nell'indifferenziato. Per quello che riguarda il legno invece ci sono delle isole ecologiche, perché il legno non viene raccolto in maniera differenziata a livello di raccolta urbana, ma deve essere conferito in apposite isole ecologiche che sono deputate a questo tipo di operazioni. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.